Eccoci, tornate con la radio di Non Una di Meno, Radio Lotto tutto l'anno, una radio pirata e oggi in puntata ci sono io alla tecnica Fede. E poi ci sono anch'io Elisabetta D'Ambrosio e Virginia Questa D'Ambrosio. puntata è a cura di Ambrosia e il tema della puntata è il 4 maggio, siamo tutte libere! Anzi no, in cui parleremo un po' del decreto e parleremo anche ovviamente di Laboratoru e la canzone che avete sentito è di Patti Smith, ovviamente perché oggi non abbiamo i contributi preziosi della nostra Ludo, che è super giovane e con una enorme creatività. Io invece sono anziana e ho messo Patti Smith. E, beh, che ne dite se iniziamo a dare i nostri contatti per iniziare? Allora, vogliamo sempre che la radio di Non Una di Meno sia una radio partecipata, quindi potete mandare i vostri contributi audio oppure qualcosa che scrivete, eccetera, a nonunadimenomilano@gmail.com. Potete consultare il nostro blog se volete sentire le vecchie puntate o se volete darvi un'altra scorsa al piano, che è il piano di Non Una di Meno che è caricato sul blog, che è nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. Ci trovate anche su Facebook, Instagram e Twitter con minime varianti di Non Una di Meno Milano. Abbiamo anche un canale Telegram a cui potete iscrivervi, che è Non Una di Meno Milano, e abbiamo un nuovo gruppo su Telegram in cui potete unirvi, a cui potete unirvi, che è Diretta Radio Lotto tutto l'anno, in cui potete scriverci durante la diretta o mandarci gli audio e noi cercheremo in qualche modo di mandarli in onda e di leggerli e non vediamo l'ora di sentire cosa avete da dirci. Questa radio Lotto tutto l'anno, è nata proprio con l'idea che questo distanziamento sociale non diventasse però isolamento. E proprio per questo motivo, proprio perché crediamo che lockdown non significhi isolamento, crediamo sia cruciale fare sorellanza e per questo motivo vi lasciamo anche i contatti seguenti, come di consueto, contro la violenza di genere domestica, vi segnaliamo innanzitutto il sito direcontrolaviolenza.it. Seguito vi lasciamo il numero di telefono della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, CADMI, Centro Antiviolenza, che è 02 5501 5519, oltre al numero nazionale 1522. E sempre perché crediamo che sia importante fare sorellanza in un momento in cui abortire è ancora più difficile, vi segnaliamo i contatti di Obiezione Respinta, che hanno vari contatti, innanzitutto un numero attivo ore 24 che è 331 96 34 889. Hanno anche una pagina Facebook Obiezione Respinta e anche IVG Ho abortito e sto benissimo. C'è anche un canale Instagram obiezione.respinta, c'è una mail obiezione.respinta@canaglie.org, e anche loro hanno un canale Telegram tutto in maiuscolo SOS aborto tratto basso COVID tratto 19. Perfetto, ma oltre a questo abbiamo anche dei fiori all'occhiello della nostra radio, che sono tre rubriche. Una è Ti dedico una canzone e potete dedicare delle bellissime canzoni ai vostri affetti stabili, di cui parleremo dopo, e a tutte le vostre persone, noi la manderemo in onda con la dedica. Una rubrica per i sogni, quindi potete scriverci anche i nostri sogni che verranno largamente interpretati, E un'altra rubrica che è la posta del cuore, dove potete scriverci come sta andando o come andrà questa fase 2 e ne parleremo. E per oggi abbiamo una dedica. Attenzione, quindi fra poco sentiremo un pezzo bellissimo e la dedica è a Monica per immaginarti mentre canticchi a occhi chiusi in sala pensando a orizzonti ampi. Dari. Che dedica The Devons, Blood, Red, Blues. Che ne dite? La mandiamo subito questa bellissima dedica? Subito. Eccola che arriva. Blood's red on the parking lot. Cops and other boys been shot. Mama worked for the house she got. Then the bank came along, everything she got. Whoa. What's going wrong? The school's been shot. Now we all know what we got to say, but everybody's scared of the NRA. How long, how long, how long? Eccoci di nuovo in diretta dopo questa bellissima dedica e come al solito diceva prima Virgi che dovremmo registrare anche i nostri bellissimi fuori onda perché per esempio mi sono dimenticata di dire una cosa prima, che siamo anche in onda su Radio Virus, importantissimo. Ma adesso entriamo un po' nel vivo della questione, ma quindi, ma da oggi? Cosa si può fare o cosa non si può fare? Allora, questa puntata è dedicata per metà al decreto, perché effettivamente ci regalano sempre delle paroline così chiare e cristalline, quindi oggi faremo un po' di chiarezza su dei punti che sono comunque di interesse nazionale in quanto colpiscono la quotidianità di tutti noi. Capiremo che cosa si può fare, che cosa no, al parco come mi comporto, lo sport, cosa mi è concesso fare, ma soprattutto dove. E poi molto molto importante che riguarda la maggior parte di tutte noi, la seconda casa. Ma No, infatti era quello che mi premeva di più, Virgi. Cioè. vero, vero, vede? Ma la seconda casa, ma chi ce l'ha la seconda casa? Ma quando posso andare nella mia seconda casa? No, vabbè, allora, potremo fare lunghe discussioni su questo, ma soprattutto parleremo dei congiunti. Cosa sono i congiunti? Chi sono? Questa parola, la parola magica del momento, un passepartout per far uscire chiunque. E quindi, insomma, parleremo un po' di questi temi che riguardano il decreto. Per cui se vogliamo iniziare dai parchi, Sì. allora finalmente sono riaperti i parchi, erano chiusi, finalmente ci possiamo tornare a piedi, in bicicletta, ci possiamo tornare con i pattini, i bambini e le bambine possono usare il loro monopattino e naturalmente dentro dobbiamo adottare tutte le misure precauzionali, per cui dobbiamo stare attenti al contagio, dobbiamo utilizzare la mascherina, dobbiamo comunque starnutire nel modo in cui ci hanno insegnato in questo periodo, dobbiamo mantenere la distanza di sicurezza e naturalmente per chi ha dei bambini e delle bambine è giusto segnalare che non c'è l'obbligo di indossare la mascherina per la prole di meno di 6 anni. Anche per chi ha qualche forma di disabilità, la mascherina non è obbligatoria qualora fosse poco compatibile con l'uso con l'uso di altri oggetti che magari possono interagire con la mobilità già scarsa. Che cosa si può fare al parco? Posso andare a Al bere la parco? birra su un telo? Cosa? Posso andare a bere la birra su un telo? Allora, no, perché c'è il divieto di picnic, di gozzovigliare, quindi noi al parco possiamo fare solo l'attività motoria, motoria sportiva, naturalmente sportiva individuale, quindi camminare, la corsa, esercizi al corpo libero, però sempre in maniera individuale, ok? Non posso giocare in gruppo perché ovviamente sono vietati gli assembramenti. Che cosa significa? Cioè, perché è stata tanto ripetuta, no, questa indicazione dello sport individuale? Perché poi naturalmente anche qui i piani si incrociano, no? Per cui il parco tocca anche il tema dello sport. Molti fanno sport al parco, quindi è molto importante, per questo che si sono concentrati tanto su questo. Non ci sono solo le persone a passeggiare o i bambini a giocare, ci sono le persone che vanno a fare sport, quindi è chiaro che il parco si riempie, ok? La novità importante è che il parco apre i confini della nostra passeggiata, perché non tutti abitano 200 metri o in prossimità di un parco, ok? Quindi noi abbiamo finalmente l'autorizzazione di uscire, no, dalla ruota del criceto che facevamo normalmente, e quindi noi possiamo andare anche in altri parchi non vicini a casa nostra, ok? Ovviamente, dobbiamo evitare di darci degli appuntamenti di gruppo, nel senso che è possibile incontrarsi, ma sono comunque vietati gli assembramenti. Ha riscosso un po' di dubbio il punto 5, cioè che i bambini... Allora, posto che si parla molto di bambini e di bambine, no? Rispetto al parco, perché è il loro momento per sfogarsi, finalmente possono accedere ai giochi, finalmente possono farsi un'altalena, sono veramente tante tante settimane che i bambini e le bambine non giocano all'aria aperta se non nel loro cortiletto, ok? Quindi è importante regolamentare l'attività del bambino e della bambina. E cosa si dice? Che è concesso portare con sé piccoli oggetti, ma da usare con l'adulto e non in gruppo. Quindi la palla, no, è stato fatto l'esempio della palla, del frisbee, ma perché? Perché anche qui, no, potrebbe sembrare contraddittorio. Come posso giocare a palla, ma me lo devo portare consentito? Ma semplicemente perché io con la palla posso giocare con la mia mamma e mio papà, o mio fratello e mia sorella, ma posso farci anche una partita di calcio, ok? Quindi in un attimo è assembramento, va bene? In un attimo è una fregatura, soprattutto scusami, ma io sono rimasta alla mia birretta che non potrò bermi sdraiata al parchetto. Non te la puoi, no, esatto. E comunque da sola, perché il distanziamento è sempre d'obbligo, ok? Gli assembramenti sono vietati, anche di bambini, quindi no feste, eccetera. Ora, tu puoi anche consumare la tua birra, il tuo cibo, un gelato, se troppo fuori da casa, visto che le gelaterie sono chiuse. Cioè, per intenderci, il bambino, la bambina può mangiare la sua merenda, il picnic non lo puoi fare, ok? Ti puoi fermare le fontanelle a bere, ma non puoi organizzare una riunione alla fontanella. Cioè, è tutto un sì ed è tutto un no. Bisogna veramente andare con il macro occhio del buon senso, cioè qual è lo scopo? Lo scopo è evitare il contagio. Quindi tu puoi sederti sulla panchina, però questo mi fa ridere, scusate, cioè fino adesso ha avuto tutto un senso, questo mi fa un po' ridere. Puoi sederti sulla panchina, ma hai il tempo strettamente necessario a riposare. Magari hai fatto sport e sei stanco. Ok, ti devi un po' riprendere, se stanca ti siedi, ok? Non puoi bere la birretta sdraiata su un telo, non puoi metterti lì a prendere il sole sul costume come si faceva un po' di tempo fa anche a St. Pierre e in tutti gli altri parchi. Non sono poi permesse tutte quelle attività che dicevamo prima, no? Che magari sfociano nelle attività ludico-creative, per cui, che ne so, palla prigioniera in 12 o tutta la classe, perché mi incontro al parco, ecco, questo non si può fare. Sono molto triste di tutte queste cose. Credo... Il parco è usufruibile di passaggio, ok? Quindi, ah, che bella giornata di sole, vado a lavorare al parco, mi porto il computer? No, questo non è possibile. Sono molto triste. Adesso per stemperare questa tristezza, che ne dite se mandiamo una bellissima canzone dal titolo poco comunicativo che è Antifa Dance? Bello, però parliamo a distanza di un metro, mi raccomando. Mi raccomando, adesso mi prendo una birretta a sfregio del DPCM. A tra poco. Thank you. los choros, los flights, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí cuanto fuera no te prendo vela. Y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Opa, guy, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Opa, guy, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Ed eccoci di nuovo in diretta, e questa era un po' la canzone che volevo ascoltarmi mentre bevevo le mie birrette al parco, ma non è stata modo a quanto pare. Però abbiamo altre informazioni per lo sport, ma soprattutto tra poco i congiunti. Allora, lo sport è un argomento bello, bello ampio, ma lo ridurremo in poche battute efficaci. Cioè, deve essere rigorosamente individuale. Quindi, no Zumba al parco alle 5 del mattino con le mamme della scuola. Mi hai sgamato. No! No Tai Chi insieme a tutte le mie amiche che sono andate in pensione con me. No! Rigorosamente individuale. E comunque sono possibili questi allenamenti solo rispettando le norme del distanziamento sociale e, lo ricordiamo, senza alcun assembramento. Importantissimo che anche qui viene tolto il limite dei 200 metri, quindi andiamo tutte e tutti a fare attività motoria oltre i 200 metri da casa propria. È meraviglioso perché ci si può spostare sempre con gli accorgimenti del caso, e anche se consigliamo di no, ma si può prendere l'auto per spostarsi e fare attività motoria, anche se noi lo sconsigliamo. E siamo arrivate a parlare dei congiunti, la parola magica. Io farò soltanto una piccolissima nota e poi lascio parlare voi, che su questo tema legale siete molto più competenti di me, ma mi immagino la difficoltà di pensarci con degli affetti stabili, cioè ti pone delle domande esistenziali questa cosa, ma i miei affetti sono affetti stabili. Comunque ho chiuso allora, con la mia parte emo. è stato divertente perché a mezzanotte 01 io dalla mia finestra ho sentito delle urla di gioia, cioè io mi immaginavo, no, già tutti pronti e pronte fuori, già ancora dentro casa, pronti a uscire allo scoccare della mezzanotte e finalmente possiamo uscire e andare a fare quello che dobbiamo fare con i nostri affetti stabili. È stata davvero la parola che ha sdoganato le uscite di milioni e milioni di italiani e italiane da oggi. E c'è stato un grande battibecco per avere la legittimità a raggiungere i nostri affetti stabili, i nostri congiunti, perché in questi giorni veramente c'è stato un delirio. Tanto di addirittura scherzi online che poi Elisabetta ha raccolto e ci leggerà, ma che ha fatto anche un po' vacillare noi giuristi, perché non esiste il termine congiunti, non fa parte del vocabolario giuridico. Alla fine è arrivata una FAQ, che fa parte delle fonti ormai del diritto primario per interpretare questi decreti, che in pratica per spiegare chi sono i congiunti, rimanda alle norme sulla parentela e affinità, nonché alla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. E questo fa veramente molto ridere. Quindi noi oggi qua definitivamente diremo chi sono i congiunti, perché congiunti e familiari alla fine abbiamo scoperto che non è la stessa cosa. Però potevano anche dire congiunti affini fino al, che ne so, tredicesimo grado, almeno noi tutti potevamo capire. Invece no, ma perché in qualche modo hanno voluto lasciare un po' aperta l'area extrasanguigna, no? Anche qui il buon senso domina su ogni cosa, no ad amici, sia all'anziano nonno con il rischio di una visita, no? Che questo comporti un altro, no? Ricovero. Allora forse sarebbe stata meglio un'apertura scaglionata per età, magari un grado di rischio, no? Spostamento con cautele, regioni limitrofe sì, no? No, niente di tutto questo. E quindi uno deve fare una ricerca giurisprudenziale per trovare, no? Allora, le vittime dell'illecito civile, allora forse l'interpretazione estesa prende anche i familiari, oltre che no, alla fine ci sono anche i fidanzati e le fidanzate. Ci sono tantissime citazioni dei congiunti dentro il codice civile, ma poi ci sono anche prossimi congiunti, ma noi invece parliamo solo di congiunti, insomma, alla fine, udite udite, arriva il codice penale che finalmente, prontamente, ci dà una definizione più ampia. E indovinate quale articolo? Quello della cospirazione di banda armata. Adesso sono interessata. Questo reato di cospirazione o di banda armata, dà una definizione di congiunti perché è essenziale al fine che interessa l'articolo, e quindi dà una definizione di prossimo congiunto, ma che è così ampia perché si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini, il stesso grado, zii, nipoti, che insomma io ho una zia dall'altra parte del mondo, la posso andare a trovare, ecco, è questo, no? E comunque questo articolo dice solo che la definizione è ai fini della legge penale, e quindi per tutto il resto che cosa, su che cosa andiamo a parare, no? Su quella poi alla fine definizione della vittima effettivamente di illecito civile, e quindi deve essere inteso nel senso che ci sia un saldo e duraturo legame affettivo che prescinda dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità, no? Quindi, per esempio, la fidanzata o il fidanzato della vittima dell'illecito è un congiunto. E da qui finalmente riusciamo a scoprire la vera definizione che ci interessa oggi, 4 maggio. Chi io posso andare legittimamente a trovare? Dobbiamo un po' capire qual è la ratio che sta dietro, no? Perché la parola è tanto magica per spezzare l'isolamento, quanto equivoca per il diritto, no? C'è un bellissimo articolo su Sole 24 Ore che lo spiega molto bene. Ma qual è la ratio? È di permettere di visitare congiunti familiari, magari anche per lasciare bambini dai nonni, no? Per esempio, dopo 2 mesi con i bambini. Esatto, ok. E senza contare il contagio, anche in questo senso, la paura degli anziani. D'altra parte, se dentro questa parola congiunti noi mettiamo dentro ogni relazione affettiva, allora si svuota di contenuto, di significato, perché allora non c'è nessun limite, ognuno può andare a trovare chiunque, no? Abbiamo veramente dovuto aspettare la definizione di Palazzo Chigi, perché fino a questo momento le relazioni non giuridicamente strutturate non potevano incontrarsi. Alla fine Palazzo Chigi quindi dice che, a parte quei legami anche non parentali, ma frutto di una relazione salda, oltre loro noi abbiamo, e ve lo leggo perché mi dovete aiutare a capire se è una se è una sorta di gerarchia, perché la presidenza del Consiglio dei Ministri mette i coniugi, ovviamente, no? Ci siamo sposati, dominiamo su tutto. I partner conviventi, quindi grazie, ho deciso di non sposarmi, però visto che convivo ho il mio bel perché. I partner delle unioni civili, attenzione, se c'è una gerarchia, grazie tante per aver messo i partner delle unioni civili in seguito ai partner conviventi. E poi le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado, come i figli dei cugini e gli affini. Quindi capite che sono veramente tantissimi, sono tantissimi. Ed è assurdo che la presidenza del Consiglio dei Ministri mi metta i partner delle unioni civili dopo i partner conviventi, quando in tutto e per tutto all'interno del codice di procedura civile e del codice civile gli uniti sono, come parola, esattamente equiparabili agli sposi. Fantastico. Ok, già questo è aberrante, ma ovviamente mai quanto un più che generico legate da uno stabile legame affettivo, no? Cioè, capite che è veramente qualcosa di... Quindi, in soldoni, si possono vedere gli amici? Sì, ma non ufficialmente. Qui vi diamo, qui lo diciamo e qui lo neghiamo. Vi diamo un po'. Noi non vi stiamo dicendo che potete benissimo darvi un appuntamento al parco e salutarvi a una distanza di 1 metro. Però è chiaro, perché l'assembramento in luogo pubblico e privato è vietato. Però se io ti incontro al parco, che coincidenza, e magari così ci beviamo un bicchiere d'acqua insieme dalla fontanella, cioè è chiaro che allora come facciamo a tutelare i nostri affetti in questo modo, ok? Dobbiamo cercare degli escamotage, naturalmente sempre tenendo bene, ben presente il rischio di contagio, quindi mantengo la distanza e tengo la mascherina, ma lo stesso succede nelle situazioni di famiglia. Forse quello che a noi viene un po' da dire è che poco si è tenuto in considerazione il fatto che le persone durante la loro vita costruiscono una rete di affetti che non hanno niente a che vedere con la famiglia di sangue, che hanno aiutato nei momenti fondamentali, che quando c'è veramente da aiutarsi sono poi loro che intervengono e non magari un parente che per motivi di vita non riusciamo più a frequentare o a vedere, anche perché questa iperfamiglia, no, come è stata definita molte volte e che ci piace molto come termine, è il vero welfare. È molto vero. Che ci aiuta, quante persone sono rimaste da sole in questa pandemia e chi li ha aiutati? Chi li faceva trovare la spesa fuori dalla porta? Chi chiedeva come stai tutti i giorni? Chi ci sosteneva con la messaggistica istantanea o con le videochiamate? Gli amici fraterni, le amiche sorelle, i compagni, le compagne sono loro, no? Quindi sono le persone che veramente noi poi abbiamo scelto e che francamente fra i più deboli, no? Soprattutto è necessaria questa iperfamiglia, perché voi provate a immaginare gli immigrati. Io col mio lavoro molto spesso io mi trovo di fronte a persone che sono completamente soli in Italia, a Milano, ma che hanno una rete e trovano l'affitto, trovano la casa, trovano un lavoro, li aiutano con l'interprete, li aiutano con la famiglia, li aiutano con me, che sono il loro avvocato. Assolutamente. E questa non è la loro famiglia di sangue. Sono i loro conoscenti, spesso connazionali, ma sono persone sulle quali hanno potuto negli anni contare, che sono cresciute insieme e che sanno che non verranno mai abbandonate. Quindi forse, no, il governo ha perso un'occasione, no? Assolutamente. Il welfare è questo. Viva se intanto mandiamo una bellissima canzone esplicativa degli affetti stabili e dei congiunti, che si intitola I Want You to Want Me, dei Letters to Cleo. E chi ha avuto come me, che ribadisco il mio essere emo, uno dei film preferiti è stato 10 Things I Hate About You, 10 cose che odio di te, fantastico, guardatevelo, bellissimo. Se lo ricorderà, adesso ci sarà un momento a Marcord per tutte e tutto. La mandiamo, raga? Vai, vai Fede. I love you. E sono tornata adolescente, che bella canzone, scusate. E siamo tornate in diretta con Radiolotto tutto l'anno e abbiamo una bellissima rassegna fatta da Eli su quello che si è scatenato sull'internet. Ben ritrovate, bene sì, mentre appunto come ci ha spiegato bene Virginia, la nostra Virgin Giallo, i giuristi vacillavano a fronte di questa clausola così generica e al mio professore di diritto costituzionale veniva una sincope nel momento in cui appunto abbiamo appreso che a quanto pare anche le FAQ pubblicate sul sito governativo diventano fonti del diritto e interpretazione autentica. Io spero che si sia ripreso, pover'uomo, il web rispondeva a queste nostre domande giuridiche ed esistenziali. Allora, un post che ho visto nella mia cerchia di amicizie, che è abbastanza scontato, ma che sull'onda emotiva ha davvero riscosso gran successo. Io credo che questa persona sarà inondata di richieste di vuoi essere il mio congiunto? Ti vuoi mettere stabilmente con me? Ecco, effettivamente questa è una domanda esistenziale e affettiva che ci siamo posti un po' tutte e tutto. Altra chicca che ci arriva dal mondo dell'internet, e tema che tra l'altro abbiamo affrontato anche nelle puntate precedenti, il sexting durante la quarantena, ma vale come affetto stabile? Sì. Ecco, mi piacerebbe molto che anche magari nel nostro canale Telegram si aprisse un po' un dibattito su questa questione che effettivamente ci ha afflitto. Ecco, c'è stato qualche commento arguto, solo foto del pene no, però pene faccia sì, perché comunque implica l'evidente rapporto di fiducia. Giusto. Poi vanno fortissimo naturalmente anche i vari meme, le varie immagini divertenti che sono molto difficili da ovviamente rendere in puntata radio, ma se andate là fuori troverete a bizzeffe di tutti i gusti, tra l'altro anche uno fantastico che ha pubblicato la nostra Charlie di Ambrosia, che salutiamo. Un meme facile però da rendere in diretta, ma dove stiamo andando? A un party familiare privato. Ecco, quindi riprendiamo questa espressione felicissima di Conte. Mi domando poi cosa significhi esattamente party familiare privato, perché boh, se significhi, non lo so, bere vino scaduto con mia zia Gloria, passo. Preferisco l'isolamento, francamente. Scusate, mi è arrivato un messaggio di errore. Ops, sembra che i tuoi legami più importanti non rientrino nell'ottocentesco concetto di congiunti previsto dal decreto. Mi dispiace. Nel tuo caso puoi passare un altro mese in solitudine mentre i tuoi amici vanno a trovare la zia novantenne che non vedevano dal 2005. No, ragazzi, questo è proprio un problema del computer. Io spero che ci sia qualche compagna, compagno hacker che mi risolva questo messaggio di errore che mi è arrivato. Adesso sentiamo i nostri amici di Unit e ti facciamo dare una mano su questa cosa che il tuo PC sa troppo. Lo faremo anche saltare se Grazie, vuoi. grazie. Proprio un messaggio di errore, cioè è tutto in crash adesso. E comunque, al di là adesso di appunto questo momento un po' ironico per stemperare, appunto credo sarebbe importante, proprio velocissimamente perché i tempi stringono, effettivamente sarebbe importante riflettere collettivamente su tutto questo. Su tutto un po' le questioni, gli spunti di riflessione che sono stati scoperchiati da questa magica parola, come diceva appunto prima Virgi, cioè congiunti, cioè è notevole realizzare come vi sia stata appunto una vera e propria gerarchizzazione da parte dei legislatori dei rapporti, fortemente improntata a una visione familiarista, eteronormata, poi diciamocelo, naturalmente alla luce sempre della ratio. Sappiamo bene che la ratio è quella di evitare il contagio, però insomma credo che sia significativo riflettere un po' su questi punti e su quella che potrebbe essere un po' la nostra visione, anche la nostra proposta, come sollevava molto bene Virginia anche prima, l'idea che ci sono, si forma davvero là fuori quella che è una vera e propria iperfamiglia che è totalmente priva di riconoscimento ad oggi, quando invece è una prima forma di welfare, quindi non so cosa ne dite, ragazze. No, è assolutamente così, ma come sostenevamo anche che purtroppo siamo un paese basato sul welfare che in realtà facciamo noi, perché il fucking welfare state non c'è, e quindi è un po' questa la tematica. E magari, come diceva anche prima Virgi, ora che si sono scontrati con queste tematiche, magari ne cavano fuori qualcosa, ma non credo, nel senso, era un moto di ottimismo, ma tornerò nel mio angoletto emo immediatamente. Comunque, secondo No, però è noi. giusto sollevare delle osservazioni e sicuramente accettare la precauzione contro il contagio, ma farlo sempre con uno spirito critico e delle osservazioni che ci insegnano anche un po' a crescere, no? Per cui, ok, stanno accadendo delle cose, però potrebbero essere altre. Assolutamente. Poi in questo periodo, allora, due cose, in realtà sono schizofrenica oggi, voi compagne lo sapete, oggi va così. Due cose, noi vogliamo veramente che questa radio sia uno spazio sicuro e partecipato, quindi noi abbiamo cercato di parlare un po' di questi temi, ma se voi avete delle riflessioni mandatecele per mail ai contatti che vi abbiamo dato precedentemente, parliamone sul gruppo di Telegram, insomma, tutto quello che volete. E troviamo un modo di costruire anche del senso e magari delle pratiche da questo. Ma questo momento, che era il famoso 4 maggio, non toglie che ci sono ancora lavoratori in difficoltà, lavoratori sfruttati e tutto il resto. E dobbiamo ringraziare tantissimo Dario che ci ha preparato due contenuti bellissimi che vi manderemo. Al primo mi piacerebbe fare una mini introduzione che è: ma che lavoro fai? Il musicista. No, ma di lavoro dico, cioè che lavoro fai? Questa cosa che si sente molto spesso, per cui i lavoratori dell'arte non sono considerati effettivamente lavoratori. E in realtà basta pensare ai nostri giorni, senza musica, senza libri, saremmo tutti quanti finiti molto, molto prima sui balconi in un altro modo, con un altro approccio, con un altro slancio forse. E quindi se vi va, manderei il primo contributo di Dario. Vai, assolutamente. Ciao a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Mi chiamo Dario Cottica e di formazione sono musicista e didatta. Da qualche anno lavoro stabilmente come docente di flauto traverso nelle scuole medie a indirizzo musicale. In quanto docente, la mia situazione personale è fortunatamente sufficientemente stabile e sicura, per quanto condivida le criticità, le preoccupazioni e le paure che attraversano in questo momento il mondo dell'istruzione e dell'educazione. In quanto artista, invece, sto osservando e vivendo la situazione drammatica in cui versa non solo il mondo musicale, ma tutto l'universo artistico e culturale italiano, storicamente segnato dalla precarietà delle figure professionali che lo popolano e in questi giorni completamente dimenticato dalla nostra poverissima scena politica. Quando parliamo di professionisti dello spettacolo, dobbiamo ricordarci che non ci riferiamo solo a strumentiste, attori, cantanti, ma anche a tecnici e tecniche del suono, maschere, runner e così via. Tutta una pletora di professioni che sono rimaste sommerse dalla corrente situazione emergenziale e che rimarranno senza lavoro con grande probabilità fino a tutto il 2020. Questa situazione drammatica non è il risultato naturale della quarantena, bensì la conseguenza di anni e anni, anzi decenni, di svalutazione e declassazione della cultura da parte della politica italiana. La narrazione subconscia della celeberrima frase «con la cultura non si mangia» non è una triste battuta. È reale, pervasiva e devastante. Questo status di ultima ruota del carro ha lentamente prodotto una situazione in cui l'artista e la professionista dello spettacolo si trovano esclusi dai meccanismi delle tutele di un apparato legislativo che non tiene conto delle particolarità della nostra categoria lavorativa. Non che prima non fossero evidenti, ma ora i nodi sono finalmente venuti al pettine. È inutile edulcorare, in Italia la nostra categoria non è considerata un mestiere. E nel 2020 ancora dobbiamo guardare con invidia e dolore alle politiche culturali dei paesi nostri vicini. Tra le domande che si pone il mondo culturale italiano in questo momento, che cosa ne sarà di noi nei prossimi mesi? Ma soprattutto, che cosa ne sarà di noi nel futuro dell'Italia? Eccoci di nuovo in onda, un contributo veramente bello, veramente peso. Grazie Dario, ma non abbiamo finito perché ci ha preparato un altro contributo di cui mi piacerebbe fare una mini introduzione, poi lascio la parola a Eli che sa ben più cose di me. Quando abbiamo sentito questo secondo contributo, almeno a me è venuta in mente questa citazione. Loro hanno vinto nel momento in cui sono rimasti uniti, perseverando nel disaggregare i lavoratori in quanto corpo sociale, perché viene affrontato anche il tema che sentirete dell'unità dei lavoratori dell'arte. Sì, e voglio innanzitutto mandare un grande abbraccio a Dario, affetto stabile dal 2010, e sappi che fai parte della mia iperfamiglia. Sì, Dario, appunto, musicista di professione e che professione, si è appunto organizzato, coordinato con altre compagne, compagni, insomma, musiciste e musicisti. E hanno nel giro di pochissimo tempo creato quello che è stato proprio in maniera super spontanea, proprio spontanistica, un gruppo Facebook che si chiama Comunità dei Musicisti Professionisti Italiani, però Dario ci ha tenuto molto a sottolineare che molto probabilmente poi si lanceranno anche in un coordinamento più strutturato anche tramite canali social che magari non avranno questo nome. Ecco, quindi non so, compagni, se voi siete d'accordo, ma a me piacerebbe magari anche in futuro continuare a rilanciare quelle che saranno le loro iniziative, i loro contatti una volta che sbarcheranno con la loro musica anche sui social. Assolutamente sì, c'è Direi consenso. pratico. Sì. Mandiamo il contributo? Vai. Assolutamente. Eccolo. Da circa un mese, le mie amiche e colleghe Firmina Adorno e Maria Calvo hanno organizzato un gruppo di dialogo, confronto e solidarietà tra musicisti professionisti di ogni settore. Nato dall'intento di creare un senso di comunità e collettività che molti di noi non si sono mai particolarmente curati di coltivare. Potrà sembrare strano a un'osservatrice esterna, ma il mondo dei musicisti tende infatti a essere piuttosto lacerato, forse in parte per via di una professione che ci costringe a tantissimo e costante esercizio individuale. Forse per le pressioni sociali, culturali ed economiche che ci portano alla competizione e all'isolamento. Il gruppo, crescendo in modo rapido ma gestibile, è passato ben presto da questa iniziale funzione prettamente sociale a tramutarsi in una piattaforma fertilissima per lo scambio di idee e per una qualità di dialogo di cui avremmo avuto bisogno da sempre. Dopo aver analizzato a fondo la situazione di emergenza, a cui molti artisti stanno reagendo in maniera sì coraggiosa, ma spesso disordinata e inefficace, abbiamo identificato i punti secondo i quali questo collettivo dirigerà la propria ricerca e la propria azione, tenendo conto delle competenze presenti nella comunità. Proverò a riassumerli sperando di non fare torto alla loro complessità. Punto 1. Trovare unità. Unità nel denunciare il sistema di svalutazione e precarietà che ci ha condotti a questa situazione. Unità nel combattere i rapporti lavorativi economicamente e deontologicamente inadeguati. Unità nel tipo di professionalità che vogliamo rendere espressione della nostra categoria. Punto 2. Informare e sensibilizzare le musiciste e i musicisti stessi. Dobbiamo diventare più consapevoli delle pessime condizioni in cui siamo costretti a esercitare il nostro mestiere. Dobbiamo entrare in contatto con le organizzazioni attraverso le quali possiamo far sentire le nostre voci e lavorare al fine di rendere realtà le nostre richieste di migliori diritti. Dobbiamo conoscere lo stato dell'arte in quanto a buone pratiche, piattaforme e modalità attraverso cui far valere la nostra professionalità anche in situazioni di emergenza come questa. Punto 3. Puntare su educazione, formazione e divulgazione. Al fine di affrontare questo punto è stato creato un tavolo di lavoro apposito, di cui anche io faccio parte, che si riunisce ogni giovedì e riferisce poi alla riunione generale del sabato. Questa questione è infatti quella da noi identificata come nodale, come il nocciolo dell'intero problema. Se in Italia la cultura è all'ultimo posto dell'intero sistema statale sociale, è per colpa di decenni di retorica e provvedimenti politici che hanno drasticamente impoverito la formazione culturale, in particolare artistica e in primis musicale, di intere generazioni di italiane e italiani. Il nostro lavoro vuole quindi concretizzarsi in una ricerca che si avvalga di analisi e contributi professionali per progettare il dopo di questa situazione emergenziale. Dobbiamo rivedere da capo il sistema educativo e l'offerta culturale territoriale in cui saranno immersi i futuri giovani. Dobbiamo anche ripensare le modalità, i linguaggi e i mezzi di comunicazione attraverso i quali il mondo della musica si rapporta col pubblico. Spesso e volentieri questi mezzi sono antiquati e inadeguati ai reali bisogni e alle sensibilità della nostra potenziale audience. Ci proponiamo dunque di riportare la musica, come prodotto culturale professionale, alla centralità che le è dovuta nella società e nella quotidianità delle nostre vite. Una centralità che, ormai è saputo e risaputo anche a livello scientifico, è per gli esseri umani fisiologica. Ultimo punto, comunicare un messaggio. Creeremo a questo fine una pagina che fungerà da vetrina e da agorà per le riflessioni e i contenuti elaborati dal gruppo, in modo da denunciare ulteriormente il disagio della nostra categoria e così da mettere una fetta più ampia della cittadinanza a parte dei nostri sforzi e delle nostre proposte. Il titolo della pagina verrà reso noto a breve. Vi ringrazio nuovamente a nome di colleghe e colleghi tutti, sia per l'invito sia per l'attenzione concessa. Siamo sfortunatamente una categoria misteriosa e invisibile che ha bisogno di essere ascoltata. Speriamo vivamente di coinvolgere anche tutte voi nell'urgenza e nell'importanza del nostro movimento. Ciao e alla prossima. Eccoci, tornate in diretta. Eccoci, grazie ancora Dario, affetto stabile da 10 anni, intanto ci uniamo alla vostra lotta di lavoratori dello spettacolo, nel frattempo non potremo trovarci come di consueto a bere birrette, però se vuoi ci facciamo una passeggiata a un metro di distanza a un parco, beviamo un po' d'acqua dalle fontanelle, via. Allora, sempre nei ringraziamenti, io personalmente voglio ringraziare Ari che mi è stata vicina durante questa diretta mandandomi dei messaggi molto carini e vogliamo ringraziare Pedro Ambrosia che ci ha preparato la playlist che fra poco proverò a mettere se riesco a far funzionare l'attrezzo. Mitico Pedro, grazie Pedro. E quindi vi lasceremo con i nostri prossimi appuntamenti che sono domani Autoru e Pillole, per cui faremo delle letture e riletture che vi faremo ascoltare di brani a cui teniamo molto. E poi venerdì, sempre giovedì invece, scusate, mandiamo in diretta le ribelli e venerdì invece abbiamo una puntata sull'internazionalismo. Siamo fortissime, ce n'è di tutti i colori. Non ci ferma più. No, infatti. Fantastico. Se non si disconnette il telefono come è successo poco fa mentre non eravamo in diretta, non ci ferma più nessuno. Va bene. Direi che è il momento dei saluti e dell'auto DJ. Vediamo se riesco a lanciare questa. Ciao playlist. Ragazze, è stata bellissima questa puntata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, iperfamiglia. Ciao. Never be look you in, I do not snore. I'd wear your black eyes, bake you apple pie. I won't ask why, I'd try not to cry. Possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar trying to make up our Razoo Dogs what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus Velocet, or Synthomesk, or Drencrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. قبل ما تفضل ما كانت عايشة نسرد قصتها بالعكس الجريمة للولادة شثتها خفزت من الحفرة لحفت الأرض طلعت العظم من جبينها وانبلعت بالفرد صدى صوتها صرخ وهي ردت عليك دموعها تصعد من الخدلة العينين من ورا غمت الدخان وجوه العيلة أخوها بلا خجل حط الفرد بالجيبة لقى نزل المجراف ودهن عرق عجبينه بهزت راس اكتفى من القبر ومقاييسه جروها على السيارة هي تضرب أخضامها كعاصفة رماية تمحي أفر بعسادة دخلوها على البجاج مش عارفة لوين بس عارفة إنهم طلعوا ثلاثة وراجعين اثنين وصلوا البيت رموها بعنف على التخت صحوها بطريقة تحلم نعكس حياتها علينا بركن نفهم عارب الساعة تتحرك من اليمين لليسار بتراجع خطواتها مثل اللي تاهت بمصار نامت جاهزة كم من قرش للتاكسي تذكرة وجواز سفر تحت الوسادة الجواب خلي الأواعي بالخزانة بتلبس حياة جديدة وإذا سألوها لإيش الحقيبة واستأذنت للنوم قامت عن الطاولة أكلت منيح مجبورة تمثل اليوم الأنف وقف نزيفه هيك مبين لهم بس الجرح طري قبل ما يتبدوها حتثبت لهم إمها عتبتها حياتك جنة صدقت لما ندوق الممنوع فيش إشي بتخبى ساعتين قبل عشا السماء انطرت اللي من صدمة طيارة تأجر رن التلفون لو أرجع لو ترجع بالزمن متجاوب من استقبل صار قصتها كان معايير بحياتها العكس ايديها بالوجه طلب النجدة ايدين اللي حواليها بالوجه هم بيقرأوا الفاتحة ورقة الرزنة من قلبتهم لورا ساعد مسا نقاش يدها اخوها قمر شلل دم بجري من شفايفها وبنصب الانف صوت لكبة من وجهها انطلقت ايدها لاول مرة بحياتها بترفض ما اعلنت بفرح بكره بن عمك جاي يطلب اذا بمسك البوم حياتها وبقلب ببسطف صوره فيها اي مخدم موقف مستصحب صفحاتي بايدي تلسل الماضي ملطخ بدم وعيوني تدمع بس وعدكم من الجريمه للولاده وجوههم خاطب كانه خبروهم جريمه اجتكم بنت البدايه together free push all cigarettes. Place your tray tables in their upright lock position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down. Together. And I said, uh-oh. This is gonna be some day. Stand by. This is the time. And this is the record. como diferem das minhas as penas das avezinhas de leves levam as. As minhas pesam-me tanto que às vezes já nem o pranto mas alivia o pesar. As minhas pesam-me tanto que às vezes já nem o pranto mas alivia o pesar. As aves como são aves suaves as penas que Deus lhes deu. As minhas pesam-me tanto que às vezes já nem o pranto mas alivia o pesar. Ai, se tu soubesses quanto sabe Deus, sei o eu. Fui à fonte beber água. Tem um raminho verde. Quem o perdeu tinha amores. Quem o perdeu tinha amores. Quem o achou tinha sedes. Dá-me uma gotinha d'água. Dessa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de haver. Alguma gota de haver. Quero molhar a garganta. Como a rola, quero cantar como a rola, como a rola. Ninguém canta. Thank you.